è la zona paludosa. Ad alta voce. Piero Baldini legge Grandi speranze di Charles Dickens. La notte era buia, anche se la luna piena si levò quando lasciai i terreni coltivati e mi inoltrai nella zona paludosa. Al di là della sua linea scura intravedevo una striscia di cielo chiaro, quasi insufficiente a contenere la grande luna rossa. In pochi minuti essa salì al di sopra di quello spazio chiaro, fra i cumuli di nuvole. Soffiava un venticello malinconico e la palude appariva quanto mai sinistra. Un forestiero l'avrebbe trovata insopportabile ed anche a me sembrò così opprimente che esitai, quasi sul punto di tornare indietro. Ma la conoscevo bene e avrei trovato la strada anche in una notte assai più buia. Ne avevo scuse per tornare indietro, dal momento che ormai ero lì. Così, venuto di controvoglia, continuai pure di controvoglia. La direzione in cui mi avviai non era quella della mia vecchia dimora, e neppure quella in cui avevamo inseguito i forzati. Voltavo le spalle alla lontana nave prigione, e solo volgendomi indietro potevo scorgere i noti segnali luminosi, lontano, sui banchi di sabbia. Conoscevo la fornace di calce altrettanto bene quanto la vecchia batteria, ma distavano miglia l'una dall'altra, cosicché se una luce fosse stata accesa quella sera, nell'uno o nell'altro punto, tra le due macchie luminose, ci sarebbe stata una lunga striscia di orizzonte nero. In principio dovetti aprire e richiudere diversi cancelli e di tanto in tanto fermarmi, mentre il bestiame che giaceva sul sentiero fiancheggiato di argini si drizzava scostandosi fra erbe e giunchi. Ma dopo un po' mi parve che la pianura fosse tutta mia. Passò un'altra mezz'ora prima che vi avvicinassi alla fornace. La calce stava bruciando con un odore torpido e soffocante, ma i fuochi erano stati ricoperti e abbandonati e non si vedeva nessun operaio. Lì vicino vi era una piccola cava di pietre e vi si era lavorato quel giorno stesso, come constatai dagli utensili e dalle carriole sparse qua e là. Tornato al livello della palude, emergendo da questa cava che il sentiero attraversava, vidi una luce nel vecchio casello della chiusa. Affrettai il passo e bussai alla porta. Mentre aspettavo risposta, mi guardai attorno, notando che la chiusa era rotta e abbandonata e che il casello di legno con un tetto di tegole non avrebbe resistito a lungo alle intemperie, se già adesso era in quelle condizioni. Notai che fango e melma erano ricoperti di calce e che il vapore asfissiante della fornace giungeva quasi per magia sino a me. Nessuno rispondeva e bussai di nuovo. Nessuna risposta. Provai a sollevare il saliscendi. Si mosse sotto la mia mano e la porta cedette. Guardai dentro e vidi una candela accesa sul tavolo, una panca e un materasso sopra un lettino a ruote. Poiché sopra c'era una soffitta, chiamai forte: «Non c'è nessuno?» Ma non ebbi risposta. Consultai l'orologio e vedendo che le 9 erano passate, ripetei: «Non c'è nessuno?» Ancora nessuna risposta. Mi avvicinai alla porta, non sapendo che fare. Incominciava a piovere fitto. Non vedevo nulla oltre quello che avevo già visto. Rientrai nella casa, rimanendo sulla soglia, al coperto, scrutando fuori, nella notte. Mentre riflettevo che qualcuno doveva essere stato lì di recente e presto sarebbe tornato, che in caso contrario la candela non sarebbe stata accesa, mi venne in mente di controllare se il lucignolo era lungo. Mi voltai per farlo, e avevo appena preso in mano la candela quando essa si spense per un colpo violento, e la prima cosa di cui mi resi conto fu di essere stato preso a un solido nodo scorsoio che da dietro mi era stato gettato sulla testa. Ed ora! disse una voce soffocata con una bestemmia. «Ti ho preso!» «Che c'è?» gridai ribattendomi. «Chi è? Aiuto! Aiuto! Aiuto!» Non solo avevo le braccia strette contro i fianchi, ma la stretta sul braccio malato mi procurava un acuto dolore. Ora la mano, ora il petto di un uomo robusto si premevano contro la mia bocca a soffocare le mie urla e un fiato caldo mi alitava sopra. Lottai vanamente nell'oscurità mentre venivo inchiodato al muro. «E adesso», disse la voce soffocata con un'altra bestemmia, «chiedi ancora aiuto e ti spaccerò in un attimo». Sul punto di svenire per il dolore al braccio ferito, sconvolto dalla sorpresa eppure consapevole che questa minaccia avrebbe potuto facilmente essere attuata, cessai di urlare e cercai invece di allentare anche di poco la stretta al braccio dolorante, ma era legato troppo forte. Era come se dopo essere stato bruciato, ora lo si cuocesse. La sostituzione improvvisa di una fitta oscurità alla penombra della notte mi avvertì che l'uomo aveva chiuso un'imposta. Dopo aver cercato a tastoni per un poco, trovò la pietra focaia e l'acciarino e incominciò a far fuoco. Aguzzai l'occhio alla luce delle scintille che cadevano sull'esca e sulle quali egli soffiava e soffiava, miccia in mano, ma potei scorgere solo le sue labbra e la punta azzurra della miccia, ed anche quelle a tratti. L'esca era umida, cosa comprensibile in un luogo come quello, e una dopo l'altra le scintille si spegnevano. L'uomo non aveva fretta e continuò a battere la pietra focaia e l'acciarino. Le scintille ricadevano fitte e brillanti attorno a lui, e alla loro luce potei scorgere le mani ed alcuni lineamenti del viso, e potei capire che era seduto e si chinava sul tavolo, null'altro. Poi vidi nuovamente le sue labbra bluastre che soffiavano sull'esca, e un chiarore intenso si elevò e mi mostrò Orlik. Chi mi aspettassi di vedere non so, non certo lui. Vedendolo compresi che mi trovavo in una situazione davvero critica e non lo persi d'occhio. Egli accese risoluto la candela con l'esca fiammeggiante, che poi gettò per terra e spense col piede. Posò la candela a una certa distanza sul tavolo in modo da potermi vedere. Si sedette con le braccia conserte e mi guardò. Vidi allora che ero legato a una grande scala perpendicolare, discosta di pochi centimetri dalla parete a cui era fissata, e messa lì per salire alla soffitta. «Ora», disse dopo che ci fummo osservati per un po', «ti ho nelle mie mani». «Slegami, lasciami andare». «Già, già, ti lascerò andare, già, ti lascerò andare sulla luna, sulle stelle, tutto a suo tempo». «Perché mi hai attirato qui con un tranello?» «Non lo sai», disse con uno sguardo bieco. «Perché mi hai assalito al buio?» «Perché voglio fare tutto da solo. Uno solo conserva un segreto meglio di due. Tu sei il mio nemico. Il mio nemico!» Il modo come gustava lo spettacolo che gli offrivo, standosene lì seduto, a braccia conserte, scrollando il capo, gongolando, aveva qualcosa di tanto malvagio da farmi tremare. Mentre lo fissavo in silenzio, egli mise la mano nell'angolo lì vicino e prese un fucile dal calcio fasciato di ottone. «Lo riconosci?» disse facendo il gesto di prendermi di mira. «Lo sai dove lo hai visto prima di oggi, eh? Parla, cane!» «Sir», risposi, «tu mi hai fatto perdere quel posto! Tu sei stato!» «Che altro potevo fare?» «Tu sei stato! E sarebbe già abbastanza senza il resto! Come hai osato intrometterti tra me e la giovane che mi piaceva?» «Quando mai l'ho fatto?» «Quando mai non lo hai fatto? Non sei stato forse tu a dirle che il vecchio Orlik aveva una cattiva reputazione? Sei tu che te la sei fatta, te la sei guadagnata da solo. Non avrei potuto danneggiarti se tu non ti fossi danneggiato da solo. Sei un bugiardo! E tu avresti fatto di sinistra se avresti speso ogni somma per farmi cacciare da questo paese, eh?» Disse ripetendo le mie parole a Biddy nell'ultimo colloquio che io avevo avuto con lei. «Ora ti dirò io qualcosa. Mai, mai come stasera ti sarebbe convenuto di farmi cacciare da questo paese, anche avesse dovuto costarti 20 volte il tuo denaro fino all'ultimo centesimo». E mi mostrava il suo grosso pugno, digrignando i denti come una tigre, e sentii che era vero. «Che cosa mi vuoi fare?» Io, disse, battendo il pugno pesantemente sul tavolo e drizzandosi in piedi, mentre il colpo cadeva per aumentarne la forza, io ti farò la pelle. Si piegò in avanti, fissandomi lentamente. Disserrò la mano e se la passò sulle labbra, come se la mia vista gli facesse venire l'acquolina. E tornò a sedersi. Tu sei sempre stato un ostacolo sulla strada del vecchio Orlick, fin da quando eri piccolo. Uscirai dalla sua strada questa notte stessa. Non avrò più a che fare con te. Sei morto! Mi sentii sull'orlo della tomba. Per un momento mi guardai freneticamente attorno, cercando una possibilità di fuga. Ma non ve ne erano. Anzi, disse di nuovo incrociando le braccia sul tavolo, non voglio che sulla terra rimanga un solo pezzetto di carne, un solo osso tuo. Getterò il tuo corpo nella fornace. Ne porterei due come te sulle spalle e qualsiasi cosa potrà immaginare la gente a tuo riguardo. Nessuno ne saprà mai niente. Con rapidità inconcepibile la mia mente sviluppò tutte le conseguenze di una morte simile. Herbert avrebbe dubitato di me. Joe e Biddy non avrebbero mai saputo il mio rimorso di quella sera. Nessuno avrebbe mai saputo quanto avevo sofferto, il proponimento che m'ero fatto di riscattarmi, attraverso quale agonia ero passato. La morte imminente era orribile, ma assai più orribile della morte era il terrore di essere ricordato sotto una falsa luce dopo morto. E i miei pensieri si susseguirono così rapidi che mi vidi oggetto del disprezzo di generazioni ancora non nate, dai figli di Estella e dai loro figli, mentre le parole di quello sciagurato erano ancora sulle sue labbra. «Ora, cane», disse, «prima che io ti uccida come una bestia, ciò che penso di fare, e per questo ti ho legato, voglio guardarti ben bene in faccia e tormentarti un bel po'. Per un istante mi passò per la mente di invocare di nuovo aiuto, sebbene nessuno sapesse meglio di me quanto solitario fosse quel luogo e l'inutilità di sperare in un soccorso. Ma mentre egli stava lì a contemplarmi, divorandomi con gli occhi, un profondo disprezzo per lui mi sostenne, sigillò le mie labbra. Decisi di non supplicarlo, di morire opponendogli un'estrema resistenza. Per quanto in quel terribile frangente mi sentissi intenerito verso tutto il genere umano e invocassi umilmente il perdono del cielo, commosso fino in fondo al cuore al pensiero che non avevo detto addio a nessuno di coloro che mi erano cari e che non avrei potuto spiegarmi con loro o invocare la loro indulgenza per i miei deplorevoli errori. Pure, se avessi potuto ammazzare Orlick, anche morendo, lo avrei fatto volentieri. Egli aveva bevuto. Aveva gli occhi rossi e iniettati di sangue. Al collo teneva appesa una fiaschetta di latta, come spesso in altri tempi gli avevo visto portare cibo e bevanda. Portò la fiasca alle labbra e ingoiò un lungo sorso. E sentii l'odore forte del liquore che vedevo infocargli il volto. Cane, il vecchio Orlick ti dirà una cosa. Sei stato tu a far morire quella magera di tua sorella. Di nuovo la mia mente, con l'inconcepibile rapidità di prima, rievocò la storia dell'aggressione a mia sorella, della sua infermità, della sua morte. Dunque sei stato tu, mascalzone, dissi. Ti ho detto che sei stato tu. Ti ripeto che è stata tutta colpa tua. La salì da dietro, come ho assalito te stasera. Quante gliene detti? La lasciai come morta. E se ci fosse stata una fornace lì vicino come c'è ora qui, non sarebbe più tornata in vita. Ma non è stato il vecchio Orlick a farlo, no. Sei stato tu. Tu eri trattato bene e lui era trattato male e battuto. trattato male e battuto il vecchio Orlik. E ora tu lo sconti. È stata tutta colpa tua. Ora tu lo sconti! Si alzò e spinse da un lato il tavolo. Poi prese la candela e, schermandola con la mano assassina, così da gettarne tutta la luce su di me, mi si mise in piedi davanti, fissandomi e godendosi lo spettacolo. Ho avuto la ferma intenzione e la ferma volontà di farti la pelle da quando sei venuto qui per i funerali di tua sorella. Non trovai il modo di impadronirmi di te senza pericolo e ti ho seguito in tutti i tuoi spostamenti. Perché, si diceva il vecchio Orlik, in un modo o nell'altro lo acchiapperò. Bene, e cercando te ho trovato tuo zio Provis, il forzato. Ti ho conosciuto da Gargeri, quando eri talmente cucciolo che avrei potuto prenderti tra indice e pollice, da quello scricciolo che eri, e strangolarti. Quante volte ho pensato di farlo quando ti vedevo errare fra i giunchi la domenica. E allora non avevi ancora trovato nessuno zio, no, davvero? Ma quando il vecchio Orlik è venuto a sapere che tuo zio Provis con ogni probabilità aveva portato quella catena da forzato che il vecchio Orlik aveva raccolto rotta in due con una lima in questa palude tanti anni fa e che aveva conservato finché non se ne servì per ammazzare tua sorella come un bue, come pensava di ammazzare te, quando è venuto a sapere questo... Nella sua selvaggia irrisione mi avvicinò talmente la candela che voltai il viso per evitare la fiamma. Ah, il bambino scottato ha paura del fuoco. Il vecchio Orlik sapeva che ti eri bruciato. Il vecchio Orlik sapeva che cercavi di portar via clandestinamente lo zio Provis. Il vecchio Orlik ti sa tenere testa e sapeva che saresti venuto stasera. Ma ti dirò un'altra cosa ancora, cane. E sarà l'ultima. C'è qualcuno che farà la festa a tuo zio Provis, come il vecchio Orlik la farà a te. Che Provis stia in guardia quando avrà perduto il suo nipotino. Stia in guardia quando del suo caro nipote non si troverà più neanche un brandello di vestito e neppure un osso del suo corpo. C'è qualcuno che non vuole saperne del forzato. Di Magwitch. Sì, Magwitch. Io so il suo vero nome. Qualcuno che vive nel suo stesso paese e che lo ha conosciuto a fondo quando vivevano in un'altra terra, che Magwitch non poteva e non avrebbe potuto lasciare di nascosto. Magwitch, attento alla forca! Di nuovo mi avvicino alla fiamma della candela, affumicandomi faccia e capelli e abbagliandomi per un istante. Poi mi volse il suo dorso possente per riporre la candela sulla tavola. Avevo recitato mentalmente una preghiera e rivolto un pensiero a Joe, a Biddy, a Herbert, prima che egli si girasse nuovamente verso di me. V'era uno spazio vuoto di qualche metro fra il tavolo e la parete opposta. In questo spazio ora egli si aggirava ciondolando in su e in giù. La sua grande forza sembrava più che raddoppiarsi mentre egli si muoveva. Le mani pesanti, i penzoloni lungo i fianchi, gli occhi aggrottati, fissi su di me. Non mi rimaneva la minima speranza. Nonostante la mia violenta agitazione e l'intensità delle immagini che apparivano alla mia mente, invece di pensieri, comprendevo chiaramente che egli non mi avrebbe mai detto ciò che mi aveva detto se non avesse deciso di uccidermi fra pochi istanti e far scomparire il mio corpo, in modo che non restasse alcuna traccia di me. Di botto si fermò, sturò la fiaschetta scagliando via il tappo. Per quanto leggero lo sentii cadere come un piombo. Egli tracannò lentamente, alzando la fiaschetta a poco. Ora non mi guardava più. Si versò nella palma della mano le ultime gocce di liquore e le leccò. Poi, in un improvviso scoppio di violenza e bestemmiando orrendamente, scagliò la fiasca lontano e si chinò. Gli vidi in mano una mazza da spaccapietre, dal manico lungo e pesante. La risoluzione che avevo preso non mi abbandonò, che senza pronunciare una sola parola vana di implorazione, urlai e mi dibattei con tutte le mie forze. Potevo muovere soltanto la testa e le gambe, ma entro tali limiti mi dibattevo con tutta l'energia finora a me ignota che possedevo. Nello stesso istante sentii delle grida in risposta alle mie. Vidi delle figure e il bagliore di una luce penetrare dalla porta. Sentii delle voci confuse e vidi Orlick emergere da un gruppo di uomini che lo assalivano come da un maruso, saltare di un balzo al di là del tavolo e sparire nella notte. Dopo un intervallo di incoscienza, mi ritrovai steso a terra e slegato, con la testa sulle ginocchia di qualcuno. Quando rinvenni, i miei occhi erano fissi sulla scala contro la parete. Si erano posati su di essa prima ancora che la mente l'avesse riconosciuta. E così, nel riprendere i sensi, seppi che mi trovavo ancora nel luogo dove li avevo persi. Troppo fuori di me sul momento per potermi guardare attorno e persino per identificare chi mi sosteneva, rimasi steso, gli occhi sulla scala. Quando a un tratto tra me ed essa si frappose un volto, il volto del commesso di Treb. «Mi pare che si stia riprendendo», disse il commesso di Treb a voce bassa. «Ma com'è pallido!» A queste parole il volto di colui che mi sosteneva si curvò sul mio e vidi che si trattava di... «Herbert! Gran Dio!» «Piano!» disse Herbert. «Piano! Sta calmo!» «E il nostro vecchio amico Startup!» «Ricordati, è per la salvezza di Provis che ci serve il suo aiuto. Stai calmo!» disse Herbert. L'accenno mi fece balzare in piedi, sebbene ricadessi subito per il dolore al braccio. «Non è troppo tardi, Herbert, vero? Che notte è questa? Quanto tempo sono stato qui?» Poiché avevo la strana, intensa impressione di essere lì da molto tempo, un giorno e una notte, due giorni e due notti, forse anche più. «Siamo ancora in tempo. È ancora lunedì sera. Dio sia ringraziato. E hai tutto domani, martedì, per riposarti», disse Herbert. «Ma continui a lamentarti, mio caro. Dove sei ferito? Puoi reggerti in piedi?» «Sì, sì, posso camminare», dissi. «È solo il braccio che mi fa male». Me lo denudarono e fecero quanto potevano. Il braccio era molto gonfio e infiammato, e non potevo quasi sopportare che lo toccassero, ma essi strapparono i loro fazzoletti per farne delle bende nuove e me lo rimisero con cura al collo, finché arrivati in città fosse stato possibile procurarsi una lozione calmante. Poi, chiusa la porta del casello, oscuro e vuoto, ripassammo per la cava sulla via del ritorno. Il commesso di Trab, ormai un giovanotto, camminava dinanzi a noi con una lanterna, la cui luce avevo visto penetrare dalla porta. Ma la luna era ormai alta nel cielo e la notte, pur piovigginosa, era molto più chiara. Il bianco vapore della fornace ci abbandonò a poco e come prima avevo recitato mentalmente una preghiera, ora recitai un grazie.